baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, oh, come back, baby, I wanna make love to you. I fratelli nel mondo del rock sono tanti: i Wilson dei Beach Boys, gli Young degli AC/DC, i Davis dei Kinks, i Fogerty della Creedence Clearwater Revival, i formidabili Duane e Greg della Allman Brothers Band e tanti altri. Alcuni andavano d'accordo, altri meno, e spesso rivalità e creatività sono andati mano nella mano. Ma se c'era da usarle le mani, i primissimi e inarrivabili sono Dorsey e Johnny Burnett. I fratelli se le davano di santa ragione fin da piccoli e hanno continuato negli anni. Negli appuntamenti live era difficile non vederli coinvolti in una rissa. In quel sud i maschi eterosessuali avevano tutti i capelli corti tipo militare, e averli lunghi e impommatati in un vistoso toupé era mal visto. A scatenare le zuffe erano le urla e gli insulti di un pubblico che dubitava fortemente della loro mascolinità. I Barnett però non si facevano pregare e rispondevano alle parole con i fatti. Erano pugili allenati e la maggior parte delle volte uscivano vincitori. E ora, quelli della Cora avevano dato un altro pretesto per un litigio fra i due. Il nome del gruppo era stato oggetto di una lunga discussione. Finalmente si erano decisi per The Rock and Roll Trio. Erano un gruppo. Nessuno doveva primeggiare sugli altri. Anche il bottino, come una vera gang di fuorilegge, andava diviso. Dorsey aveva scritto Tear It Up e aveva equamente diviso i crediti del brano in 4, 3 per la band e 1 per il manager. E ora, quelli della discografica avevano seminato zizzania mettendo il nome di Johnny davanti a tutto. Il malcontento di Dorsey e Paul piano piano si trasforma in rabbia. Erano una band e non gli accompagnatori di Johnny. Purtroppo, questo sarà il motivo che porterà allo scioglimento di una delle più grandi rock and roll band di sempre, la cui durata è inversamente proporzionale alla loro influenza. Il loro secondo single, registrato qualche mese prima a New York, vede come l'attuale rifacimento del brano di Arthur Gunter, Baby Let's Play House, intitolato per l'occasione Oh Baby Baby. Anche se il pezzo forte è lo straordinario ballatone del lato B. Midnight Train. I left my gal sad and lonely, left her standing in the rain. I went down to the railroad, I caught myself a midnight train. I beat my way into Texas, landed in a gambling town. I got myself into trouble, I shot a county sheriff down. Oh Lord, I shot a county sheriff down. They put the handcuffs on me, tied me with a ball and chain. They took me to El Paso, they tied me with a ball and chain. These prison bars all around me, no one to go my bail. My heart's sad and so lonely, 'cause I wanna get out of this jail. Oh Lord, I wanna get out of this jail. The jury read the verdict, murder in the first degree. The judge said, take this prisoner cuffs on me, tied me with a ball and chain. I've left my home forever, and I'll never see my gal again. Oh Lord, I'll never see my gal again. Ci sono due versioni di quel famoso e fatidico incidente che ne ha modellato la carriera. La prima, quella ufficiale, vede una donna alla guida della sua Chrysler che salta un semaforo in rosso e va violentemente a sbattere contro la sua moto, frantumandogli la gamba. Non c'è nessun risarcimento, perché quando in ospedale sedato gli fanno firmare dei documenti che scagionano la donna al volante. La seconda versione, confermata da alcuni commentatori, parecchio distinta. Quella sera, come tante altre, aveva bevuto parecchio. Quando si accorge di essere in clamoroso ritardo per il rientro alla base navale, parte a tutto gas con la sua potentissima Triumph. Intravisto il posto di controllo, invece di fermarsi per farsi alzare la sbarra, decide, ringalluzzito dall'alcol, di passarci sotto e guadagnare tempo prezioso. Quando realizza di non passarci è troppo tardi. D'istinto piega la moto, che gli cade rovinosamente sulla gamba sinistra, grattugiandogliela contro l'asfalto. I medici sono chiari, va amputata dal ginocchio in giù. Lui si oppone e va con lo sconsigliatissimo piano B. L'inserimento di un tutore metallico gli provoca un'infezione che colpisce l'osso, chiamata osteomielite. La gamba sviluppa una brutta piaga sullo stinco che col passare del tempo gli atrofizza i muscoli e causa varie fratture. It was you. Nonostante altri interventi chirurgici, gli resta una evidente zoppia e un dolore perenne. Per sopportare meglio la sofferenza, gli antidolorifici non li prende con l'acqua, e questo non fa che accentuare il lato peggiore del suo già di per sé caratteraccio. La menomazione alla gamba è decisiva per il suo atteggiamento sul palco. Gene Vincent rimane statico, afferrato al microfono con una gamba avanti e l'altra indietro. Si ritorce con il viso stravolto e lo sguardo fisso, in uno stile originale, totalmente distinto da tutti gli altri che correvano e saltavano, e lontano anni luce dalla danza inverosimile circense di Elvis. Il suo stile essenziale, marchio di fabbrica, sarà copiato in lungo e largo da una folta schiera di cantanti. In settembre si presenta ovviamente con i suoi Blue Caps in un altro classico del rockabilly, impreziosito dalla scintillante chitarra di Cliff Gallo, chiamata Race with the Devil. Well, let an evil eye, so you say, but I'll have from the devil on judgment day. I say, I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Oh yeah. Well, me and the devil sitting at a stoplight. He started rolling all us out of sight. I say, I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Well, going pretty fast, I look up behind. I hear the devil doing 99. I say, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on fire, I'm on the line. Let's jam! Smart, the race was won. Here come the devil doing 101. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man. I'm on fire, I'm old man down the line. Let's play it again. I'm a fire, I'm an old man. I'm a fire, I'm an old man. I'm a fire, I'm an old man down the line. Come on, yeah. Well, I've led an evil life. I didn't say, but I'll have run the devil on judgment day. I'm a fire, I'm an old man. I'm a fire, I'm an old man. I'm a fire, I'm an old man down the line. Fury, and a voice, his heart stone. Se vogliamo credere a tutto ciò che racconta, avvisando che si tratta di uno dei personaggi più bizzarri e sparaballe della storia del rock, perfetto. In fondo, è questo il bello. La madre, forse perché fans del film Sette Spose per Sette Fratelli, ha sette figli con sette uomini diversi. Uno di questi è J.L. C. Hawkins, che viene lasciato sulla porta di un orfanotrofio. Quando ha un anno e mezzo, viene adottato da una coppia di nativi americani della tribù dei Piedi Neri. Il piccolo mostra precocemente un'ottima predisposizione per la musica, soprattutto per il pianoforte. A big long shotgun. Va al conservatorio, dove studia opera per seguire i passi dei suoi idoli, Enrico Caruso, Mario Lanza e soprattutto del cantante attivista dei diritti civili, Paul Robeson. A 14 anni, falsificando il certificato di nascita, si arruola nell'esercito. In molti assicurano il suo incarico fosse di intrattenere con il sassofono le truppe, ma lui insiste essere stato fatto prigioniero dai giapponesi in seguito allo sbarco sull'isola di Saipan e dopo una terribile prigionia di 18 mesi, quasi tutti di tortura, venire salvato. Oh, yes, it did, viene congedato nel 52 con onore, probabilmente per la chicca finale, dove racconta di aver messo una bomba a mano in bocca al suo torturatore e aver tirato la linguetta. Don Bombarolo. Will they taught me? Diventa anche campione dei pesi medi dell'Alaska, ma ovviamente non c'è nessuna prova. Fuori dall'esercito, capisce che per un afroamericano sfondare nel mondo dell'opera è come pensare di vincere una gara di 100 metri sui tacchi. Così decide di dedicarsi alla musica. Entra prima come autista e tuttofare nella band di Teeny Grimes. Poi, dopo qualche mese, suona il piano, canta e diventa l'attrazione principale degli show quando si esibisce con due lattine di latte condensato sotto la maglia, imitando Ruth Brown in Mama, I Treat Your Daughter Mean. Mm-hmm. Nel 52, con i Rockin' Highlanders di Timmy Grimes, registra un disco con l'Atlantic che non vedrà mai la luce, perché prende pugni a Matt Ertegun, colpevole di ripetergli di suonare come Fats Domino. Due anni dopo è incaricato di aprire proprio gli show del Cicciotto di New Orleans, ma viene cacciato quando si presenta sul palco vestito con una tutina di pelle di leopardo. Nel 55, al piano di un bar, scrive una raffinata canzone d'amore, una ballata blues pensata per riconquistare una sua ex di Filadelfia. La incide, ma non fa molta impressione ai produttori e non viene neanche pubblicata. Cambia poi discografica e si accasa la Hawker Records, dove assembla un'ottima band di supporto, fra cui spicca il saxofono di Sam the Man Taylor. Jealousy cambia anche il nome. Entrerà nella storia come Screaming Jay Hawkins, ispirato da un fan che durante un concerto non smetteva di urlargli Scream Baby Scream. Screaming Jay crede molto in quel brano e chiede al produttore della session, Arnold Maxim, di poterlo riproporre. A Maxim non piace affatto quella canzone così conciata. Voleva che rispecchiasse il sound della band al vivo. Quando viene a sapere da Hawkins che il segreto per essere così spontanei sul palco era l'uso eccessivo di alcol, si presenta alle session con due casse di vino moscato. Il risultato di quelle registrazioni sorprendono pure Hawkins, che a fatica si riconosce. Non ricorda nulla. Le radio si rifiutano di suonarla, la ritengono scabrosa e indecente. I soliti esagerati sostengono inciti al cannibalismo. Grazie alla diffusione delle radio indipendenti e del passaparola della gente, in qualche mese il brano arriva sorprendentemente a vendere 1 milione di copie. Poco dopo la registrazione del brano, il DJ Alan Freed gli offre $300 per aprire i suoi show chiuso in una bara. Dopo molte titubanze accetta, e quando il pubblico vede quell'uomo sbucare fuori dalla bara va in visibilio, e quella trovata diventerà un punto fisso dei suoi concerti. Visto che il personaggio è portato agli eccessi e all'esagerazione, spinge i concerti a un livello successivo, incorporando al suo show fiamme, fumo, esplosioni e oggetti di scena macabri come serpenti di gomma o il bastone che stringe con un tesco fiammeggiante di nome Henry, generando una grande atmosfera voodoo. A incrementarla è lo showman, che esce dalla bara vestito da sciamano con un turbante, da vampiro, oppure nudo con un perizoma, armato di lancia e scudo e con un osso nel naso. Screaming porta il rock all'eccesso, diventando il padre di quello shock rock che ha generato una miriade di figli, come Alice Cooper, Arthur Brown, il suo imitatore inglese Screaming Lord Sutch, fino ad arrivare ai Kiss e tanti altri fenomeni da baraccone. Una miriade di figli veri e propri ce li avrà per davvero. Alcune volte sono 57, altre volte il numero viene girato, ma resta comunque il fatto che è stato uno spregevole donnaiolo irresponsabile. Proprio per una storia di sesso con una minorenne possesso di marijuana, è arrestato nel 58. Una volta uscito dal carcere, si trasferisce alle Hawaii. Da allora, poco o niente, fino alla cover del suo brano d'opera della strepitosa Nina Simone, che gli porta generosi introiti per le royalties. Vive una seconda giovinezza in Europa, soprattutto in Gran Bretagna, e nel 69 ci regala un'ultima genialata. Questa Constipation Blues, il blues della stitichezza, che nei concerti canta seduto su un water. Oltre che per aver portato il teatro sui palchi del rock, Screaming Jay Hawkins è entrato nella leggenda per uno dei brani più coverizzati della storia, la viscerale I Put a Spell on You. I put a spell on you. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Di St. Louis era Ike Turner, ma c'era qualcuno pronto a spodestarlo e a cambiare per sempre la musica. Quando il giorno del suo 21esimo compleanno era uscito di galera, la prima cosa che aveva fatto era stato comprare una chitarra. La musica, in fondo, era stata la sua salvezza. In carcere aveva cantato in un quartetto gospel e assaporato un po' di libertà nei suoi concerti fuori dalla galera. Ora che gli avevano ridotto la pena, voleva rigare dritto e dedicarsi alla musica. Era entrato nel gruppo dell'amico d'infanzia Tommy Stevens. Suonavano fissi all'Half Garden, un locale nella parte est di St. Louis, la zona più pericolosa della città, dove risse e sparatorie erano cose normali. Il pianista Johnny Johnson aveva urgente bisogno di un membro per la sua band e gli offre il doppio della paga di Stine per entrare nel suo gruppo. Non sa che in meno di un anno ne sarebbe diventato il leader. In fondo, era merito suo aver incorporato brani country al repertorio del gruppo. All'inizio lo avevano messo in croce. Un afroamericano non poteva e non doveva suonare quella roba a visi pallidi, ma ai loro concerti accorreva sempre più gente.

Nel dicembre del 56 scioglie i Teen Kings con smania di diventare solista. Alla Sun però non c'è posto per lui. Inizia a scrivere canzoni per altri e proprio con un pezzo dedicato alla moglie intitolato Claudette trova il successo grazie alla versione degli Everly Brothers. Nel 1958 si accasa alla Monument, poppifica il sound e vive i momenti più felici della sua carriera, a cominciare da Only the Lonely, il grande inno dei solitari. Nel boom dell'high school diventa il maestro incontrastato di appassionati melodrammi caratterizzati dall'inconfondibile voce di stampo operistico. Per pochi il suo periodo migliore è quello alla Sun, con pezzi oscuri come questa, A Cat Called Domino. There's a cat in town that you might know. He goes by the name of Domino. A long keychain and a diamond ring. A blue sport car, he's a crazy king. They love it so, that cat called Domino. Domino, Domino. The girls all think he's a real gone guy, and they all flip when he walks by. Caddy clothes and cool white shoes, he's ready to go and never sings the blues. They love him so, that cat called Domino, Domino, Domino. He's got cold black hair and a solid style, long sideburns and a crazy smile. Just ask the girls, they'll tell you so. They dig that cat called Domino. They love him so, that cat called Domino. Domino, Domino. Well, Domino, poor man goes. Domino, they love you so. Get out of the way, here comes Domino. Domino, Domino. La sua carriera era iniziata con uno dei primi prototipi di rock and roll, questa The Fat Man del 1949. Da allora e fino al 1962 vende 65 milioni di dischi, secondo solo Elvis in quanto vendite. Poteva essere la prima star del rock and roll, ma c'erano alcuni aspetti che lo rendevano impossibile. Primo su tutti, era afroamericano e in quel paese nessuno di loro poteva essere il re di niente. Poi c'era il resto. Non era propriamente sexy, era grasso con un enorme faccione quadrato. In più, parlava il creolo della Louisiana come prima lingua. E quando si comunicava in inglese era difficile capirlo per via di quell'accento così pronunciato. Non era una rockstar e manco sognava di esserlo. È sempre stato sposato alla stessa donna e lasciava malvolentieri la sua casa di New Orleans. Era un tipo amichevole e gentile, sempre con il sorriso stampato in faccia. Nonostante l'aspetto bonario, a Fats Domino è associato quello che la stampa ha chiamato la prima rivolta del rock and roll. Era il 7 luglio e Fats e la sua banda si dovevano esibire al Palomar Garden Ballroom di San José in California. Lo spettacolo doveva iniziare alle 9, ma il cicciotto era in forte ritardo. Il locale era zeppo di gente e il bar stava facendo affari d'oro. In quella lunga e snervante attesa c'era stata una rissa prontamente sedata dalla polizia. Dopo un'ora e mezza, Fats inizia il suo show. Nella pista da ballo non entra neanche uno spillo. Nella pausa iniziano a volare bottiglie di birra e scoppiano varie risse. I'm walking, yes indeed, I'm talking, but you and me, I'm hoping that you come back to me. Alcune bottiglie vengono lanciate contro l'illuminazione facendo cadere una pioggia di vetri. You come back to me. Il caos aumenta a dismisura quando il demente di turno fa scoppiare dei petardi che fanno pensare a molti dei 3.500 presenti a uno scontro a fuoco. Tutti si precipitano fuori in preda al panico. Molte risse continuano anche nelle strade, fino all'arrivo della polizia che conclude il tutto con 12 arresti. Il giorno dopo, le maggiori testate del paese avevano grossi titoli. Rock and Roll Riot a San José. Fortunatamente, il bravo capo della polizia ci mette una pezza, dichiarando che era colpa della birra e non della musica. Da quel giorno, nei concerti, la birra sarebbe stata distribuita in bicchieri di carta. Una soluzione ben diversa di quella del capo della polizia di Santa Cruz, che poche settimane prima aveva interrotto un concerto perché gli adolescenti ballavano in modo osceno e altamente suggestivo. Il giorno dopo aveva emanato un editto che vietava il rock and roll in quella città, ricevendo numerose lettere di complimenti. Per una grossa fetta della società americana il rock and roll era pericoloso. Andava ostacolato con ogni metodo perché era un elemento di coesione etnica. Il potere di quella musica poteva abbattere le barriere razziali e questo non potevano permetterlo. Blue Monday, how are you, Blue Monday? Got to work like a slave all day. Here come Tuesday, oh Tuesday. I'm so tired, got no time to play. Fats Domino, comunque, è il personaggio meno indicato per scatenare una rivolta. La sua musica non aveva né connotazioni sessuali né razziali, né tantomeno incitava alla ribellione. Il suo compito era di farci sentire bene, felici, impresa sempre riuscita. Saturday morning. In settembre registra il suo più grande successo, il brano che condensa tutta la sua quintessenza. La cover di uno standard ripreso da tanti artisti come Glenn Miller o Louis Armstrong, la mitica Blueberry Hill. Found my thrill on Blueberry Hill, on Blueberry Hill. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. melody. But all of those vows we made were never to be. So we're apart. You fought on me still. Dopo i due single registrati a New York, il trio chiede di poter andare a Nashville, dove sicuramente si sarebbero trovati più a loro agio. La Coral non pone obiezioni e prenota i mitici studi di Owen Bradley. Nel viaggio verso sud, per raggranellare qualche dollaro, si esibiscono in varie città. Una sera, prima di un concerto a Philadelphia, a Burleson cade l'amplificatore. Quando sono sul palco, la chitarra ha un suono diverso, più cattivo e sporco. Quello strano sound piace parecchio, così il chitarrista incuriosito si mette a spattaccare all'amplificatore per capire da cosa derivi. Finalmente realizza che quella roba era merito di una valvola allentata. Presto impara a saperlo riprodurre alla perfezione e propone agli altri di registrare un paio di canzoni con quell'effetto. Quando arrivano a Nashville, vanno in vari negozi di dischi dove fanno incetta di single, soprattutto di rhythm and blues, per cercare canzoni da affiancare ai loro originali. Le session agli studi di Owen Bradley durano 4 giorni, dal 2 al 5 luglio. Il produttore riesce ad ottenere il massimo dal trio. Gli affianca un batterista professionista come Buddy Arman e soprattutto lascia carta bianca alla band, permettendo di registrare quel suono distorto. Ne esce un single memorabile. Sul lato B, il Johnny Barnett Trio, come si chiama ora, violenta un classico minore di Big Joe Turner, intitolato Honey Ash. Welcome in this house, stop all that yakety yak. Come on in this house, stop all that yakety yak. Cause your sugar daddy don't talk it back. Keep on a jabbing, talking about this and that. Oh, well, you can keep on talking about this and that. I got the news for Lato A di quel single è un brano epocale che ha le sue origini negli anni 40 con la canzone Cow Cow Boogie di Ella Mae Morse, portata al successo da Ella Fitzgerald assieme agli Ink Spot e Billy Doggett al piano nel 1943. Da questa versione prende ispirazione il cantante e band leader Teeny Bradshaw per cambiare qualcosina e trasformarla in un ballabile jump blues. Il trio rivolta come un calzetto il pezzo di Bradshaw, lo fa a una velocità sonica e con una profusione di energia esagerata. Il canto straziante e tormentato di Johnny lo rende unico e la chitarra di Paul Burleson segna un prima e dopo nella musica. Se l'incidente all'amplificatore di Willie Kithart per l'incisione di Rocket 88 era frutto del caso, in Burleson c'è dietro una ricerca e quindi la volontà di suonare distorto, facendo del brano il primo della storia con una chitarra fuzz. Il temazzo, probabilmente uno dei migliori di tutti i 50, entrerà nella storia anche nella versione degli Yardbirds, che appare con il titolo di Stroll On in una scena del film di Antonioni Blow Up, durante la quale Jeff Beck compie uno dei riti del rock: spaccare la chitarra contro gli amplificatori. Da un gruppo di ex pugili non c'è che da aspettarsi una versione d'assalto di The Train Kept Rollin'. I called a train, I met a dame. She was a hipster and a real gone dame. She was pretty from New York City, and we trucked on down that old fair lane with a heave and a hoe. Well, I just couldn't let her go. Get along, sweet little woman, get along. Better be up on your way to get along. Sweet little woman, get along. Better be up on your way with a heave and a hoe. Well, I just couldn't let her go. Well, the train kept a rolling up on that hill long. Rolling up on that hill, the train kept a rolling up on that hill, the train kept a rolling.